che ti sono davanti e che ovviamente ti lasciano un maggior segno. È inevitabile, appunto. Nel tuo romanzo, tra l'altro, ho notato che dai molto spazio alla descrizione degli ambienti. Parti con la descrizione dell'ambiente e poi il personaggio, cosa gli accade, cosa prova, cosa sente. Questo è un po' il tuo approccio alla scrittura. Come mai decidi di partire dall'ambiente? Spesso nei romanzi, nelle opere prime, si parte da se stessi, dal protagonista, da quello che sente, sono romanzi più intimisti. Invece tu parti dagli ambienti. Credo che questo dipenda dalla mia passione per il cinema. È un'impronta un po' cinematografica quella di descrivere l'ambiente per farlo vedere al lettore. Mi piace l'idea che io e il lettore possiamo vedere la stessa cosa, e l'unico modo per farlo è dare una descrizione nei minimi dettagli, appunto, dell'ambiente, che a volte magari non si può anche evitare, però è una cosa che mi piace fare proprio. Il titolo Il ladro di nebbia, sappiamo che insomma i titoli a volte vengono scelti dalle case editrici, a volte dagli scrittori, eccetera. Il tuo ha un significato particolare nel romanzo, che in parte possiamo dire e in parte no. Però ecco, cosa possiamo dire di questo ladro di nebbia, visto che l'abbiamo messo nel titolo? Senza svelare troppo. Senza svelare. Questa è la domanda più difficile che ti farò in questa intervista, pensa te. Ok, il ladro di nebbia. Prova a darmi due o tre elementi del ladro di nebbia senza svelare troppo. Innanzitutto che questo secondo me era il titolo più giusto per questo libro, perché è quello che il protagonista è quello che sarà, è quello che è stato ed è quello che sono anche io. Caspita, allora per scoprire che cos'è questo personaggio e che cos'è in realtà, chi è in realtà Lavinia Petti, non ci resta che leggere naturalmente il tuo romanzo, che come dicevamo prima è Il ladro di nebbia ed è pubblicato da Longanesi, una scrittrice veramente giovane. Alla sua opera prima l'hanno paragonata almeno alle atmosfere di Zaffon, quindi insomma leggetelo, poi mi scriverete cosa ne pensate al cacciatore di libri @radio24.it. Grazie a Lavinia Petti. Grazie a voi. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. Ci sono dei libri che piacciono tantissimo a chi ama i libri. Uno di questi è Non scrivere di me, scritto da Livia Manera Sambuì, pubblicato da Feltrinelli. Livia è una collega, è una giornalista, scrive per il Corriere della Sera e praticamente ha incontrato i più bravi scrittori, possiamo dire così, i più bravi scrittori del mondo, viventi, ormai magari qualcuno che non c'è più. E in questo libro, Non scrivere di me, ha raccontato proprio la sua vita di giornalista culturale, gli incontri che ha fatto con alcuni di questi scrittori. Partiamo dall'incontro con David Foster Wallace, perché è uno di quelli che mi ha incuriosito di più. Tu, Livia, racconti proprio anche come sono avvenuti gli incontri, dove, cioè fai vivere il lettore con te in quel momento, gli fai ripercorrere il tuo percorso. Quando tu hai incontrato David Foster Wallace, che è uno degli scrittori americani ormai scomparso, però insomma di riferimento, un titolo per tutti, Infinite Jest, così insomma l'abbiamo inquadrato, racconti in questo libro che ti aveva dato un appuntamento in uno strano posto. Dove vi siete incontrati? È stata una cosa difficile perché David Foster Wallace era un uomo molto difficile. Vorrei premettere una cosa però prima di cominciare a parlare dei singoli autori. Questo non è un libro di interviste, è un libro che parte dall'enorme quantità di interviste e di incontri che ho fatto nell'arco della mia vita per il Corriere, seguendo l'area anglo-americana. Ma è un libro di racconti, ed è un libro di racconti su scrittori che sono sì scrittori ma sono anche delle persone. Sì, infatti è proprio il tuo incontro anche umano, sì, con queste persone. Sei andata a casa loro oppure vi siete incontrati, esatto, in strani posti e avete fatto uno scambio umano oltre che letterario, diciamo. Quello di David Foster Wallace è il più tormentato, naturalmente, perché lui era un uomo tormentatissimo. Lui accettò di dare questa intervista al Corriere all'epoca in cui è uscito Brevi interviste con uomini impossibili e ne diede soltanto una. E questa intervista si poteva fare soltanto al chilometro 225 della statale 55 dell'Illinois, che congiunge Chicago con Billington, mi sembra. Perché aveva dato appuntamento in un banalissimo McDonald's. In un McDonald's, sì. Ma non per mangiarci. E io pensavo, visto che era alle 7 di sera, che avesse anche intenzione di mangiarci. E lui mi ha detto, ma lei è pazza, assolutamente. Io in un posto così non mangerei mai. Io dico, ma perché mi ha fatto venire qui, in un'area di servizio in mezzo al nulla? Lui mi ha detto, ma perché questo era il posto dove i miei genitori si davano appuntamento con me dopo che si sono separati. Era a metà strada tra le case di loro due e ho pensato che potesse essere il posto giusto. E lì è partita questa conversazione tormentatissima, anche molto divertente, anche molto spiritosa, ma con degli angoli, con dei momenti proprio molto acuti di sofferenza. Era un uomo che non aveva letteralmente un secondo di pace. A proposito invece degli altri incontri di cui parli in Non scrivere di me, il titolo viene da un incontro particolare che tu hai, come dire, posizionato per ultimo, sì. Quello con Philip Roth. Philip Roth. Con Philip Roth, che è l'autore a cui sono stata più vicina di tutti tra questi otto e lo sono tuttora, abbiamo un'amicizia che dura da 15 anni e il titolo viene da una frase, da un episodio effettivamente incredibile che mi scioccò all'epoca. Avevamo già avuto dei rapporti difficili all'inizio, ero andata a intervistarlo per La macchia umana, si fa l'intervista al telefono e lui mi dice, non perché io sia stata particolarmente brillante nell'intervista, perché l'ha gestita tutta da solo. E poi Roth è notoriamente un uomo sensibile alle donne, per cui è bastata una voce femminile per accendere qualche cosa e mi ha chiesto, senta, questa intervista mi dispiace di non averla incontrata, questa intervista è stata molto piacevole, vorrei rimediare, posso invitarla per un drink domani? Allora io ho detto, guarda, mi spiace moltissimo, ma oggi era il mio ultimo giorno, ho aspettato fino all'ultimo e quindi domani parto. Per circostanze strane, anche di amicizia comune, invece ci siamo incontrati, conosciuti e poi si è creato un rapporto, perché quando andavo a New York ci vedevamo sempre e anzi era la mia abitudine la prima sera quando arrivavo di andare a cena insieme. Un giorno stavo lavorando alla mia scrivania a Milano e alle 6 del pomeriggio mi ricordo suona il telefono ed era lui con una voce molto un po' grave, mi rendo conto che sta succedendo qualche cosa, insomma quello che era successo era che lui era appena ritornato a casa dopo una operazione alla schiena molto molto seria e aveva, come capita dopo un'anestesia generale, una grande sofferenza, aveva un momento di depressione forte e probabilmente si sentiva solo e quindi come un adolescente mi ha detto, sai, ho guardato sull'agenda, mi è capitato di vedere il tuo nome, ho pensato di telefonarti. Ed è stata come una cosa confessionale molto molto intensa e totalmente priva di pudore e di remore, cioè una persona che avevo sempre conosciuto così difesa, sappiamo che uno che si guarda bene dai giornalisti eccetera, che improvvisamente apriva il suo cuore, ma su tutto. Quindi alla fine di questa conversazione, che sarà durata un'ora, un quarto, un'ora e mezza, quando lui ha cambiato tono e invece di dire gentilmente arrivederci, mi ha fatto piacere parlarti, ti ringrazio che mi hai ascoltato, ha cambiato tono e ha detto, lo dico in inglese per lo traduco in italiano perché l'inglese è più forte, you'll never write about me again, e mi ha sbattuto il telefono in faccia, cioè tu non scriverai mai più su di me e fine della storia. Io mi sono offesa moltissimo, ci ho pensato, perché non era facile dirgli quello che volevo dirgli, cioè va a quel paese, però alla fine insomma ci ho pensato, il giorno dopo l'ho chiamato e gli ho detto effettivamente che lui non poteva permettersi di fare una cosa del genere, che sapeva benissimo chi era, sapeva benissimo che mestiere facevo, che evidentemente aveva già capito che non avrei mai usato le cose che mi aveva detto per scriverle, se no non mi avrebbe chiamato e non le avrei usate, ma che non si permettesse mai più di darmi un ordine sulla mia vita. Ero veramente convinta che i nostri rapporti sarebbero finiti lì. E invece, devo dire, la sua qualità principale è quella di riuscire sempre a sorprendere e mi ha detto, ah vabbè, e poi ha continuato, per un po' di mesi abbiamo continuato ho continuato a ricevere queste telefonate anche notturne, certo, in cui molto divertenti, devo dire. Ti è capitato anche poi magari di mettere uno di questi scrittori, di questi autori nel tuo libro, di incontrare uno scrittore dal quale non ti aspettavi moltissimo, invece ti ha sorpreso per quello che anche umanamente è riuscito a comunicarti? Quasi tutte le volte. Questo è la cosa che mi incanta del mio mestiere. In questo libro parli di molti scrittori. Per esempio, a un certo punto tu inizi un capitolo scrivendo: non credo di aver conosciuto molti scrittori capaci di sparare, ma Richard Ford è uno di questi. E non soltanto perché va a caccia di pernici nelle foreste del Maine, poi prosegui raccontando altre cose, ma perché in un'occasione Ford ha impugnato un'arma per vendicarsi di una stroncatura. Che cosa era successo? Richard Ford è famosamente irascibile, è un uomo straordinario, è anche un grande amico con cui ho dei rapporti complicati, perché lui è anche molto complicato, forse anch'io, ed è uno che si può arrabbiare, quando si arrabbia veramente. Tra l'altro ha il fisico anche adatto, perché sembra Clint Eastwood in più bello, quindi potrebbe essere in un western. E quello che era successo è che era uscito un libro suo alcuni anni fa, una scrittrice l'aveva recensito sul New York Times e lui non legge le recensioni perché è così irascibile, quindi non si vuole arrabbiare, ma le legge sua moglie, e la moglie gli aveva detto due o tre cose dicendo: lascia, meglio che lasci perdere. E poi la moglie, che è anche una grande cacciatrice, una bellissima donna, sono sposati da 50 anni e è un matrimonio molto molto forte, ha preso lei il libro, l'ha messo fuori e su un piedistallo e ha sparato la prima pallottola e poi ci ha dato dentro anche lui. Poi hanno preso il libro e l'hanno mandato alla scrittrice che l'aveva con i colpi, naturalmente, con i colpi. Crivellato. Questo in base a una cosa che lui sostiene, ed è questa, che in fondo posso capire. Lui dice: un conto è un critico che stronca un tuo libro, è il suo mestiere, ha diritto di pensare quello che vuole. Ma quando, come succede molto spesso negli Stati Uniti, soprattutto al New York Times, è un altro scrittore a scrivere di te, beh, quello scrittore deve avere lui sa quanta fatica hai fatto tu a scrivere quel libro e quindi deve avere rispetto per la sua fatica, perché la conosce in prima persona e sa che se ti stronca su un giornale come il New York Times, il tuo libro non ha nessuna possibilità, cioè tu hai chiuso. E quindi questo era quello che l'aveva motivato. Grazie a Livia Manera Sambuì per essere stata con noi. Ora in libreria con Non scrivere di me, pubblicato da Feltrinelli. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it, potete trovarmi su Facebook e naturalmente anche su Twitter. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.